10 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 10 dicembre. Evviva gli sposi, evviva Giannino, e abbasso le minestre di Capellini. Finalmente la pace è tornata in famiglia e tutto per merito mio. Stamattina dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta e quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto zitto mi sono alzato, mi son vestito e sono andato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ha suonato il campanello il vetturino e tutti sono usciti. Allora io, che stavo pronto, lesto come una saetta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa, ho agguantato la traversa di legno che è in fondo, dietro il mantice, e mi son ficcato lì a sedere come fanno i ragazzi di strada, pensando fra me: ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. Il più bello poi è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza. E tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva: «Per carità, badate che quel terremoto di Gian Burrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo!» Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono sceso anch'io. Oh maraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. «Che chiesa è questa?» ho domandato a un contadino che era lì fuori. «È la chiesa di San Francesco al Monte!» Sono entrato anch'io e ho visto dinanzi all'altar maggiore, inginocchiati davanti al prete, l'avvocato Maralli e Virginia e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare senza che nessuno si accorgesse di me, e così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio, e quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscito a un tratto fuori dell'ombra e ho detto: «Sono contento anch'io, e allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?» Non so perché, ma in quel momento m'è venuto da piangere, perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero, e tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato domandandomi con voce tremante: Giannino mio, ma come hai fatto a venir fin qui?» Il babbo ha borbottato: «Una delle solite!» Anche Virginia dopo lo sposalizio piangeva e mi ha abbracciato e baciato, ma il Maralli m'è parso molto malcontento e presomi per un braccio mi ha detto: «Bada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto. Hai inteso?» «E perché?» «Non ti impicciare del perché. Non son cose che possono capire i ragazzi queste. Sta zitto e basta.» Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire. Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo? Basta. L'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene. Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta col vetturino e ho guidato quasi sempre io, e quel che più conta, ora non mangerò più minestre di Capellini per un pezzo. Fine del 10 dicembre.